Admeto, ecco tua figlia, preservata dal nome. E quello io sono. Oh, quello io sono. Non nomio qual sinora fingermi convenia tra voi qui in terra. Qual di Daphne di Clizia, tal di Dorella, sfortunato amante, al fin del cocchiamone, scherno di me si prese a vendicarsi. Sciolgasi tosto il miro. Ecco, al padre la figlia e all'amator l'amante ormai si venga, la colga l'uno e l'altro a così rara villa vado stenda. Vieni, o diletta figlia, ti stringo illustre sposa. Oh, contento! Oh, prodigio! Oh, meraviglia! Io d'abbia tu pur devi, differendo la fede, dar con destra di sposa la mercede. Eccomi pronta! A un tal portento dunque di due cari, Costanza trionfante, ognuno onore.